da terre sovrano, non da terre sovrano. No. Regno fiero, son del mio regno fiero. Ma voglio il mondo intero nel pugno mio serrar, nel pugno mio.